ad alta voce. Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser. Traduzione di Emilio Castellani. Terza puntata. Quasi ogni mattina, nelle prime ore, si svolge tra me e Kraus una schermaglia di discorsi sottovoce. Kraus crede sempre di dovermi incitare al lavoro e forse non si sbaglia se pensa che non mi piace alzarmi presto. In realtà mi piace molto alzarmi dal letto, ma subito dopo non trovo niente di più bello che rimanere tra le coltri un po' più a lungo di quel che mi è concesso. Non avere il permesso di fare una cosa è qualche volta così attraente che non si può fare a meno di farla. Proprio per questo amo così profondamente ogni sorta di costrizione, perché dà modo di assaporare la gioia di violare la legge. Se al mondo non ci fosse nessun comandamento, nessun precetto, morirei, mi consumerei, diventerei storpio dalla noia. Io non posso essere che incitato, costretto, tenuto sotto tutela. È questo che mi piace. Alla fine sono poi io solo a decidere. Punzecchio sempre la cipigliosa legge fino allo sdegno, dopodiché mi adopero a placarla. Kraus nell'istituto Beniamenta è il rappresentante di tutti i regolamenti in vigore. Ecco perché io sfido sempre un poco alla lotta questo ottimo fra i miei condiscepoli. Le liti mi piacciono moltissimo. Se non potessi litigare starei male, e per litigare e adirarsi non c'è nessuno più adatto di Kraus. Lui ha sempre ragione. Ti decidi o no ad alzarti, pigraccio? E io sempre torto. Sì, un po' di pazienza, vengo subito. Chi è in torto ha la sfacciataggine di invitare sempre a pazientare chi ha ragione. Aver ragione rende bisbetici, mentre aver torto dà sempre una certa tranquillità sprezzante e petulante. Quello che difende con passione la causa giusta, Kraus, soccombe sempre dinanzi a quello, io, a cui il buono e l'utile non stanno particolarmente a cuore. Io ho la meglio, perché me ne sto ancora a letto, mentre Kraus trema di rabbia perché deve continuare a bussare inutilmente alla porta, far baccano e ripetere: «Su, alzati, Jacob, avanti, santo Dio che poltrone sei!» Uno che sia capace d'arrabbiarsi a perbacco. Quello per me è un uomo simpatico. Kraus non perde occasione di arrabbiarsi. E questo è tanto bello, tanto umoristico, tanto nobile. Noi due siamo magnificamente assortiti. Di fronte a uno che si indigna è necessario ci sia sempre un peccatore, se no mancherebbe qualcosa. Quando poi finalmente mi sono alzato, faccio finta di stare in ozio. «Guardatelo, quel giuggiolone», dice lui allora, «come se ne sta lì a bocca aperta invece di rimboccarsi le maniche». «Stupendo!» I borbottamenti di un arrabbiato suonano più graditi al mio orecchio del mormorio di un ruscello di bosco, sfavillante del più radioso sole di un mattino domenicale. «Gli uomini!» Nient'altro che gli uomini, sì, lo sento vivamente. Io amo gli uomini, amo e apprezzo le loro mattane e impennate più di qualsiasi prodigio della natura. Ogni mattina noi alunni, prima che si sveglino i nostri superiori, dobbiamo riordinare l'aula e l'ufficio. A questo incarico provvediamo in due a turno. «Alzati, ti muovi o no?» O anche: «Adesso smetti di batter la fiacca. Alzati, alzati, è ora! Già da un pezzo dovresti avere in mano la scopa!» Che spasso! E Kraus? Il Kraus dall'eterno cipiglio, come mi è caro! Devo ancora una volta ritornare al principio, al primo giorno. Nell'intervallo fra le lezioni, Schacht e Schilinski, che ancora non conoscevo, fecero una corsa in cucina e portarono in aula su un piatto la colazione del mattino. Anche davanti a me venne posto del cibo, ma io non avevo appetito, non mi andava di toccare nulla. «Devi mangiare», mi disse Schacht, e Kraus aggiunse: «Tutto quello che c'è sul piatto deve essere mangiato per benino, hai capito?» Ancora oggi ricordo come quei discorsi mi suonassero sgradevoli. Mi sforzai di mangiare, ma pieno di ripugnanza lasciai lì quasi tutto. Allora Kraus mi venne accanto, mi batté con sussiego sulla spalla e disse: «Tu che sei nuovo qui, sappi che i regolamenti prescrivono che quel che c'è da mangiare sia mangiato. Tu sei orgoglioso, ma sta tranquillo. L'orgoglio ti passerà. Che cosa dovremmo fare? Buttare in strada le fette di pane spalmate di burro e ricoperte di salsiccia? Calmati e aspetta, da bravo, vedrai che ti tornerà l'appetito. In ogni caso si intende che questa roba che hai avanzata devi mangiarla. All'istituto Beniamenta non sono tollerati gli avanzi nei piatti. Avanti, mangia, sbrigati e non darti quelle arie da cruccioso e da schifiltoso. Ti passeranno presto queste ubbie, credi a me. Non hai appetito, dici. Io invece ti consiglio di averlo. È solo l'orgoglio che ti toglie l'appetito, stanne sicuro. Su, da qui. Per stavolta ti aiuterò io a finire quantunque sia contro tutte le buone regole. Ecco, vedi un po' se questo non si può mangiare. E questo? E quest'altro? Era una squisitezza, te lo dico io. Tutta quella scena mi riusciva penosa. Provavo una violenta ripugnanza contro quei ragazzi che mangiavano. E oggi? Oggi mangio altrettanto bene e senza storie come qualunque altro alunno. Ogni volta, anzi, mi rallegro alla vista dei cibi modesti ma ben preparati, e per nulla al mondo mi passerebbe per la testa di sdegnarli. Sì, in principio ero vanitoso e superbo, turbato da chissà quali idee, mortificato per non so più quali motivi. Evidentemente ogni cosa mi era nuova e perciò ostile, e per giunta ero uno sciocco di prima grandezza. Anche oggi sono uno sciocco, ma in un altro modo, più fine, più cortese. Tutto dipende dal modo di guardare alle cose. Uno può essere balordo e ignorante quanto vuole, se sa un po' adattarsi. Se dà prova di un po' di duttilità e di scioltezza, non è ancora perduto. Anzi, può trovare la sua strada nella vita, magari meglio di tanti intelligentoni e archi di scienza. Questione di modo. Sì. Sì. Prima di venir qui, Kraus aveva già molto penato nella vita. Assieme a suo padre, che è barcaiuolo, andava su e giù per l'Elba su pesanti chiatte di carbone. Dovette lavorare molto, molto duramente finché si ammalò. Ora vuole fare il servo, diventare proprio il servitore di un signore, e del resto le qualità del suo cuore dimostrano che è nato per questo. Sarà un servitore impareggiabile, perché non solo il suo aspetto lo rende adatto a codesto stato di umiltà e di dedizione, ma veramente anche lo spirito, il carattere, insomma tutto l'atteggiamento umano di questo mio compagno ha in sé qualcosa di servile, nel miglior senso che si possa dare a tal termine. Servire. Purché Kraus riesca a trovare un padrone per bene, non posso augurargli altro destino, giacché ci son pure dei padroni o dei signori, o comunque dei superiori, che non gradiscono e non desiderano affatto di essere serviti alla perfezione, che non sanno apprezzare un servigio prestato. Kraus ha stile, ed è quel che ci vorrebbe per un conte, cioè per un signore sommamente distinto. Un Kraus non si può farlo lavorare come un qualunque schiavo, un qualunque lavoratore. Lui sa rappresentare. Il suo viso è tagliato apposta per rendere un tono, un modo di fare qualsiasi. E la sua condotta e il suo contegno saranno l'orgoglio di colui che lo ingaggerà. ingaggiare? Sì, si dice così. E un giorno Kraus sarà offerto in ingaggio a qualcuno o sarà ingaggiato da qualcun altro. Ed è quest'idea a rallegrarlo, e per questo egli studia il francese con tanto zelo e sforzo della sua mente alquanto torpida. C'è però una cosa che lo preoccupa. Si è preso dal barbiere, come dice lui, una decorazione un po' ripugnante, una corona di bocciolini rossicci, o diciamo meglio, di puntolini, o insomma, e senza tanti eufemismi, di pustole. E questo, si capisce, è tutt'altro che bello, soprattutto per la sua aspirazione a essere assunto da un padrone elegante e veramente distinto. Che fare? Povero Kraus. Quanto a me, per esempio, quei brufoli tanto deturpanti non mi impedirebbero minimamente di baciarlo, se dovessi. No, in tutta serietà, perché non me ne accorgo nemmeno più. Non vedo affatto che abbia un brutto aspetto. Sul suo viso scorgo solo la sua bell'anima, e solo questa è degna di amorevolezza. Ma a questo riguardo il futuro padrone e despota sarà di tutt'altro avviso, e appunto perciò Kraus si unge con una pomata le sgradevoli piaghe che lo affliggono. Si serve anche frequentemente dello specchio, non certo per fatua vanità, ma per constatare i progressi della guarigione. Mai si guarderebbe allo specchio se non fosse quella bruttura che lo tormenta, perché la terra non conosce nessuno di meno vanesio, di meno borioso di lui. Il signor Beniamenta, che porta a Kraus un vivo interesse, si informa spesso circa l'inconveniente e la sua auspicata scomparsa. Tra poco Kraus, infatti, dovrà affrontare la vita e assumere servizio. Penso con timore al momento in cui egli abbandonerà la scuola, ma non è tanto imminente. Gli toccherà, credo, curarsi il viso ancora piuttosto a lungo, cosa che certo non posso dire di desiderare, eppure la desidero. Se dovrà lasciarci, sentirei tanto la sua mancanza. Anche troppo presto andrà a lavorare da un padrone che non saprà apprezzare le sue qualità. E altrettanto presto io dovrò rinunziare a un compagno che amo senza che lui lo sappia. Solitamente scrivo queste righe di sera alla luce della lampada, seduto al grande tavolo nell'aula intorno al quale noi alunni, chi più chi meno ebete, dobbiamo così spesso sedere. Qualche volta Kraus è molto curioso e allunga gli occhi al di sopra della mia spalla. Una volta gli ho fatto le mie rimostranze. «Ma Kraus, scusa, dimmi un po', da quando ti occupi di faccende che non ti riguardano?» Lui se l'è presa molto, come tutti coloro che si lasciano cogliere sul sentiero segreto della strisciante curiosità. A volte me ne sto seduto da solo fino a tardanotte su una panchina nel parco pubblico. I lampioni sono accesi, la luce elettrica piove abbagliante tra le foglie degli alberi come un liquido che bruci. C'è caldo in giro, da ogni angolo emanano strane promesse segrete. La gente passeggia su e giù, si ode bisbigliare verso i viali nascosti del parco. Poi torno all'istituto e trovo chiusa la porta. «Schacht!» chiamo sottovoce, e il compagno, secondo le intese, mi getta giù la chiave in cortile. Camminando in punta di piedi, poiché è proibito attardarsi fuori, sgattaiolo nella mia stanzetta e mi infilo nel letto. E poi sogno. Spesso faccio dei sogni orribili. Una notte, per esempio, ho sognato che avevo schiaffeggiato in viso la mamma, la mia cara mamma lontana. Che urlo cacciai e come mi svegliai di colpo. Il dolore per la mostruosità del mio immaginario comportamento mi fece balzare fuori dalle coperte. L'avevo afferrata per i capelli venerandi, quella santa donna, e l'avevo gettata a terra. Oh, non ci voglio pensare. Come raggi taglienti sprizzavano fuori le lacrime dagli occhi di mia madre. Ricordo ancora chiaramente la sua bocca lacerata e sfigurata dallo strazio. Ricordo come era immersa nel dolore e alla fine lasciava ricadere indietro la nuca. Ma a che scopo richiamare quelle immagini? Domani dovrò finalmente scrivere il mio curriculum, altrimenti rischio una sgridata coi fiocchi. Ogni sera, verso le 9, noi ragazzi cantiamo sempre una canzoncina di buonanotte. Ci disponiamo in semicerchio davanti alla porta che dà negli appartamenti interni. A un certo momento la porta si apre, la signorina Beniamenta appare sulla soglia in una bella veste bianca lunga fino a terra, ci dice «Buonanotte, ragazzi», e raccomandandoci di starcene tranquilli dà ordine di coricarci. Allora Kraus ogni volta spegne la lampada dell'aula e da questo attimo in poi non si deve udire il minimo rumore. Ciascuno in punta di piedi deve raggiungere il suo letto. E i Beniamenta dove dormono? Sembra un angelo la signorina quando ci dà la buonanotte. Che venerazione ho per lei! Il signor direttore, invece, la sera non si fa mai vedere. Strano o no che sia, comunque è un fatto che colpisce. A quanto pare l'Istituto Beniamenta ha goduto nei tempi andati di maggior fama e affluenza in confronto ad oggi. A una delle quattro pareti della nostra aula è appesa una grande fotografia su cui sono ritratti una quantità di allievi di un precedente anno scolastico. Quanto al resto, l'arredo della nostra aula è molto sommario. All'infuori del tavolo lungo di una decina o dozzina di sedie, di un grande armadio a muro, un tavolo laterale più piccolo, un secondo armadio anch'esso più piccolo, una vecchia cassapanca e pochi altri oggetti di scarso rilievo, non contiene alcun mobile. Al di sopra della porta che conduce nel misterioso e sconosciuto mondo degli appartamenti interni, è appeso come ornamento uno sciabolone della pubblica sicurezza dall'aspetto alquanto sgradevole, con relativo fodero sovrapposto per traverso. Sopra il tutto troneggia l'elmo. Questa decorazione sembra voler essere un prospetto o un'elegante dimostrazione dei regolamenti che vigono qui dentro. Per quel che mi riguarda non vorrei certo che mi regalassero quella specie di fregio scovato probabilmente da qualche vecchio rigattiere. Ogni due settimane lo sciabolone e l'elmo vengono tirati giù per essere puliti, lavoro questo che per quanto divertente non si può che definire decisamente stupido. Nell'aula, oltre a questi ornamenti, ci sono poi i ritratti della coppia imperiale defunta. Il vecchio imperatore ha un'aria incredibilmente pacifica, l'imperatrice un'espressione semplice e materna. Noi allievi spesso puliamo e laviamo a fondo l'aula col sapone e l'acqua calda. Alla fine tutto luccica e odora di pulito. Dobbiamo fare noi ogni cosa e in questo lavoro da fantesche ciascuno porta legato alla vita un grembiule. Diventiamo tutti, senza eccezione, ridicoli in questo abbigliamento che ha un che di femminile. Ma in queste giornate di ripulitura regna l'allegria. Ci divertiamo a lustrare il pavimento, a tirare a lucido gli oggetti, anche quelli di cucina, tra un visibilio di stracci e di polvere detersiva, a inondare d'acqua il tavolo e le sedie, a rendere splendenti le maniglie delle porte, a soffiare sui vetri delle finestre per poi nettarli. Ognuno ha il suo piccolo compito, ognuno si dà da fare. Si pulisce, si lava e si sfrega per un intero giorno, un po' come gli gnomi delle fiabe, che come è noto provvedevano per soprannaturale bontà d'animo alle bisogne più rudi e più stancanti. Quello che facciamo noi altri alunni lo facciamo perché dobbiamo farlo, ma perché lo si debba fare nessuno di noi lo sa con precisione. Ubbidiamo senza riflettere a quello che sarà un giorno il risultato di questa incurante ubbidienza e sgobbiamo senza pensare se tutto il lavoro che eseguiamo sia giusto e lecito. In uno di questi giorni di pulizia tremava il più anziano dei nostri compagni. si è permesso con me uno scherzo di cattivo genere. Mi si è appostato alle spalle e con la sua mano immonda, le mani che commettono simili azioni non possono essere che rozze e immonde, ha afferrato il mio membro intimo con l'intento di procurarmi un godimento ripugnante, non dissimile dal titillio di una bestia. Io mi giro di scatto e con un pugno stendo a terra l'infame. Di solito non ho tanta forza, Tremala ne ha più di me, ma il furore mi aveva riempito di un'energia irresistibile. Tremala si alza e mi si precipita addosso. In quel momento la porta si apre e sulla porta appare il signor Beniamenta in persona. «Jacob! Lazzarone!» grida. «Vieni qui, subito!» Io mi avvicino al mio superiore e lui, senza nemmeno chiedere chi abbia incominciato la lite, mi dà una botta in testa e se ne va. Sto per rincorrerlo, per gridargli in faccia come sia stato ingiusto, ma mi padroneggio. Cerco di riflettere, getto un'occhiata sul gruppo dei ragazzi e torno al mio lavoro. Con Tremala da quel momento non ho più scambiato una parola. Anche lui mi evita e sa bene perché. Che gli rincresca o no mi è poi del tutto indifferente. L'episodio antipatico è, come potrei dire, dimenticato da tempo. Tremala in passato era stato imbarcato su varie navi. È un tipo corrotto e si direbbe che si compiaccia delle sue vergognose inclinazioni. Quanto all'arresto, è di un'ignoranza paurosa, perciò non mi interessa. Furbastro e nello stesso tempo incredibilmente stupido, cosa può esserci di meno interessante? Ma una cosa però da Tremala l'ho imparata. Non bisogna mai trovarsi del tutto impreparati ad attacchi e offese di ogni genere.